Italia in controluce. Buongiorno ad Alessio Maurizi, 13.34, l'appuntamento ogni giorno a quest'ora su Radio 24 con le storie e i personaggi della cronaca che ci raccontano l'Italia in controluce. Molte, troppe storie di parti che si complicano all'improvviso, abbiamo sentite in queste settimane, casi diversi, percentuali di rischio forse calcolabili, forse, ma sempre più spesso si scopre che dietro alle nascite per via chirurgica si nasconde la scarsa formazione anche pratica dei medici al fatto specifico, il parto naturale. In Brianza hanno deciso di imboccare un'altra strada, come racconta la responsabile della sala parto, dottoressa Anita Regalia, intervistata da Alessandra Schepisi. In Italia la percentuale dei cesari è del 40% e supera di oltre il doppio la soglia fissata dall'OMS. Nel vostro ospedale è del 18%? Sì, 18-19 in base agli anni. Sì. Come siete riusciti a contenere i parti cesarei? Sono tanti fattori, comunque i principali sono: uno, avere delle linee guida basate sulle evidenze scientifiche condivise da tutti gli operatori, da una parte; dall'altra, che le scelte nei casi più complessi non sono mai lasciate al singolo, che quindi si trova anche in difficoltà magari, ma lavoriamo sempre almeno in due. Poi abbiamo lavorato moltissimo nella relazione medico-ostetrica. L'ostetrica sta accanto alla donna tutto il tempo, quindi anche questo, oltre da un punto di vista umano, diciamo, una donna non è mai sola, è anche utile dal punto di vista clinico, perché nota tutti i particolari, le variazioni sia cliniche che di comportamento, che poi ti aiutano nel caso, come purtroppo è successo, dell'emergenza. Ecco, ma lei come commenta quel caso? Lei mi diceva che lavorate anche in due, ma se c'è un conflitto... Le regole del gioco sono ferre, perché come in tutte le democrazie ci sono le opinioni diverse, però poi c'è uno che deve decidere, no? Perché quella è anarchia, se no. Quindi chi decide, che in genere è il più anziano, diciamo, che è quello che poi alla fine prende la decisione, e l'altro deve in qualche modo sottostare, e poi se ne discute dopo. Voi puntate anche molto sulla formazione per far recuperare ai ginecologi l'elemento principale, cioè l'elemento principale è la formazione, perché io faccio molta formazione in giro per l'Italia anche nelle sale parto. Quello che salta all'occhio non è che i colleghi vogliono fare i cesari, perché appunto uno si domanda: ma scusa, ma allora perché nei paesi nordici non c'è questa tendenza? In Francia, che sono i nostri cugini di fianco, non c'è questa tradizione di voler fare cesare a tutto spiano. Come mai? Ma la formazione francese degli ostetrici è netta, perché loro hanno tra l'altro diviso la specialità tra ostetrici e ginecologia. Chi sceglie di fare l'ostetricia fa l'ostetrico, quindi si forma su questa, diciamo, modalità di assistenza, che non è identica a quella di un chirurgo di sala operatoria come quello del ginecologo. Quindi in Italia molti ginecologi non sanno affrontare un parto naturale. Esatto, e quindi hanno paura. Faccio formazione, mi dicono: guarda, hai perfettamente ragione, però poi io sono lì da solo. Anche l'organizzazione italiana, con ospedali piccoli in cui il medico singolo ha poca esperienza, quindi il caso più complesso gli capita una volta ogni. Ma cosa c'è di male in un parto cesareo? Perché secondo molti ginecologi invece il bambino soffrirebbe di meno. Allora, beh, intanto non è vero, perché sono usciti adesso questi lavori anche pubblicati sul New England, che bambini nati dal parto cesareo hanno una maggiore difficoltà di adattamento alla nascita da un punto di vista respiratorio. Secondo, le morti materne da cesareo sono più alte. Italia in controluce. Molti film e serie TV si sono dedicate sempre più spesso alla figura dell'infiltrato, un personaggio a volte mitico che, per vincere la battaglia contro i cattivi, deve entrare nel loro mondo. Ma non è solo fiction. A ricordarcelo un libro, Una vita da infiltrato, di Giorgio Tosi, ex poliziotto, oggi giornalista, e Angelo Iannone, ex tenente colonnello dei Carabinieri, li ha incontrati. Paola Ceretta. Giorgio Tosi, da dove nasce l'idea di questo libro? L'idea viene da una curiosità di verificare se anche in Italia esistevano quelle figure che il cinema e la letteratura, soprattutto anglosassone, ci hanno fatto conoscere, con personaggi quali Donnie Brasco o altri protagonisti di film e romanzi gialli o di avventura. Prima di diventare giornalista, lei è stato per 10 anni un poliziotto. Ha mai fatto l'infiltrato? No, perché proprio la curiosità è venuta anche dal fatto che, nonostante io abbia prestato servizio per diversi diversi anni nella Polizia di Stato, nemmeno a me era mai arrivata notizia di questa figura, cioè non si conosce proprio l'esistenza degli agenti sotto copertura. Angelo Iannone, quali sono le caratteristiche di un buon infiltrato? La capacità di resistere a situazioni che comportano pressione psicologica molto forte, capacità di improvvisazione, e ci possono essere dei cambiamenti improvvisi che comportano necessariamente una capacità di adattarsi alle situazioni, conoscenza dei fenomeni da contrastare, perché soltanto così ci si può immedesimare il più possibile nella psicologia degli interlocutori criminali. Crescere in un quartiere a rischio l'ha aiutata nel suo ruolo da infiltrato? Aiuta molto, perché in qualche modo ti fa respirare quella sottocultura che permea tutte le organizzazioni criminali, una serie di, chiamiamoli, valori impropriamente o controvalori che caratterizzano le organizzazioni criminali. Ma un esempio, il senso del rispetto e come ottenere rispetto: attraverso frasi ad effetto, attraverso un interlocuzione che sia fatta di poche parole, molte espressioni, molta gestualità, molto non detto più che detto. Come ha deciso di lavorare sotto copertura? Normalmente gli ufficiali non fanno gli infiltrati. C'è stata un'opportunità, c'era necessità di un pugliese, con quale io sono, che agganciasse questi personaggi che si erano recati in Puglia per contattare dei contrabbandieri che non conoscevano direttamente. Bisognava decidere in 24 ore, ho detto ci vado io. È difficile non sconfinare nel rapporto umano con i criminali che si frequentano sotto copertura? Non soltanto è difficile, se non impossibile, ma sconfinare nel rapporto umano può addirittura essere d'aiuto, perché chiaramente consolida il rapporto di fiducia con i criminali. Comunque ti convinci che alla fine dietro ogni criminale c'è anche un uomo con i suoi problemi, con le sue preoccupazioni, con i suoi rimorsi, con i suoi sensi di colpa. Una cosa che caratterizza la cultura dei criminali è che i criminali sanno che esistono delle regole. Se le loro conseguenze penali nascono e sono conseguenza dell'applicazione delle regole, loro accettano il gioco, accettano le regole del gioco, quindi sanno che in quel momento tu hai fatto il tuo lavoro, anzi se l'hai fatto bene si complimentano anche. Alcuni di loro diventano collaboratori di giustizia. Tosi, qual è la storia che l'ha colpita di più? Colonnello Angelo Iannone ha fatto un'infiltrazione che, da quello che ho potuto verificare io, non aveva precedenti in Italia, perché ha infiltrato un'organizzazione di narcotrafficanti colombiani con base in Olanda, derivazioni in Italia, con appoggi sulla camorra napoletana. In altri casi abbiamo per esempio un maresciallo dei carabinieri che invece vive per oltre un anno all'interno dei campi rom della Lombardia per identificare una banda di stupratori seriali. Italia in controluce. E ora invece parliamo di un appuntamento: sabato 25, domenica 26 a Cesena. Beppe Grillo e i Movimenti a 5 Stelle hanno convocato una convention, una riunione a cielo aperto, chiamata una Woodstock del Movimento a 5 Stelle, che qualcuno ha definito una Woodstock della politica italiana tout court. Come si presenta questo avvenimento? Nicola Accardo ne ha parlato direttamente con Beppe Grillo. L'Udine è superato, l'abbiamo superato, era una fase di protesta, di andare a votare sulla legge elettorale, sui criminali in Parlamento, sulla libertà di stampa. Abbiamo fatto le nostre battaglie, non sono servite, ma hanno solo servite a creare un movimento di rete impressionante. Ora ci guarderemo un po' in faccia, ci staremo un po' lì, in Pratone, a Cesena, con la musica, due giorni, comincia alle 5 del pomeriggio del sabato 25, per poi arrivare alla sera della domenica 26. Quindi è una riunione di tutti i membri, sì, del movimento, insomma? No, chiunque. Staremo a vedere, ci guarderemo un po' e faremo un po' un punto della situazione. Sul palco ci saranno, oltre ai gruppi rock, così, cinque personaggi internazionali che parleranno ognuno delle 5 stelle, dell'acqua, dell'energia, la mobilità, i rifiuti, le rinnovabili, il wifi. Tra gli artisti che ci sarà? Famosissimi non ce ne sono, ma non servono neanche. La Samuele Bersani ci sarà, non lo so, adesso stiamo vagliando un po' quelli, diciamo, più noti. Poi vedremo, lo spettacolo sarà sotto il palco piuttosto che sopra. Sarà questa marea di gente che si incontrerà. Io sarò lì con una roulotte, gente che arriverà con le tende, i camper. Ci vedremo un po' in faccia e magari sarà anche una questione di che i giovani cominceranno a riprendersi un po' il futuro che è stato tolto, insomma. Il cartone del movimento è nato per questo. È nato per i giovani. È nato dai giovani, non per i giovani. È nato in rete, io ho fatto solo da coagulante, ma c'era già. Zidei è stata l'espressione di movimento in rete e che si è allargato e sta andando sempre meglio. Il movimento sarà online a breve, la piattaforma online del movimento nazionale, quindi ognuno vale uno, con un click potremo votare su qualsiasi cosa, soprattutto sul programma. Quindi oltre alla musica ci sarà anche spazio per un discorso politico? Io non faccio discorsi, non ne farò discorsi sul palco politici, presenterò i gruppi, dirò qualche cosa, canterò soprattutto, canterò dei blues, mi sto allenando con dei bravissimi musicisti e poi la politica, parlerà di politica, non di politici, ma di politica vera. I giovani dovranno ricominciare a prenderselo, a conquistarselo nei comuni, nelle regioni, in Parlamento. Parleremo di acqua, ci saranno stand delle rinnovabili, movimenti che hanno aderito, verranno lì a far conoscere i loro programmi. Ci sarà il chilometri zero, ci sarà l'acqua pubblica e questo è bellissimo perché non prendiamo finanziamenti ed è questa la grandezza di questo movimento, che si è formato senza soldi pubblici. Questa situazione che c'è invece nella politica dei politicanti sembra una palude in questo momento, non si riuscirà neppure a trovare una legge elettorale? Il problema è questo, abbiamo fatto un video, non si può andare a votare con una legge così, sarebbe un suicidio per tutti tranne che per Berlusconi, quindi un governo qualsiasi che si impegni a cambiare la legge elettorale, fare la legge sul conflitto di interessi e bloccare il debito. Queste sono parole come quelle di Napolitano, sembrano quasi parole da Presidente della Repubblica. Ma Napolitano ogni tanto tra un sonnellino e altro magari monita, noi sono anni che diciamo queste cose. Trisce 46 minuti è tutto, scriveteci controluce@radio24.it. Adesso c'è America 24, noi ci sentiamo domani.